Europa 24. Un saluto anche da Gigi Donelli. Partiamo con la notizia. Arriva da Atene il via libera all'esborso di 2,8 miliardi di aiuti alla Grecia. L'ha deciso il board dell'ESM. Con l'esborso odierno, gli aiuti dell'ESM alla Grecia raggiungono i 31,7 miliardi su un programma di assistenza finanziaria da 86. Il lavoro, diciamo, l'intervento congiunto di FSF e ESM, insomma i due fondi salva stato dell'Eurozona, hanno fornito alla Grecia in totale 173 miliardi nel corso ormai degli ultimi 3 anni e mezzo. Parliamo invece di una questione che si è aperta, o meglio riaperta, tra Unione Europea e Canada, con l'intervento di una regione, lo stop imposto dalla Vallonia al CETA, dunque l'accordo di libero scambio. Ci sono commenti e c'è soprattutto una trattativa in corsa. Al di là del temporaneo arresto della firma dell'accordo di libero scambio UE-Canada, ci sono margini per trovare abbastanza rapidamente un compromesso. Così Gianni Pittella, capogruppo socialisti e democratici, che dice UE-Canada hanno negoziato 7 anni, un rinvio di qualche settimana non è la fine del mondo. Intanto un municipio inglese su 4 si rifiuta di accogliere i bambini rifugiati che arrivano dal campo profughi di Calais in via di smantellamento. La denuncia arriva dal Guardian, sottolineando che questo è un ostacolo al piano lanciato dallo stesso governo di Theresa May. Ma vediamo, o meglio ascoltiamo, qual è la situazione invece nel campo di Calais in questo servizio. Composti, rassegnati, i migranti di Calais anche oggi fanno la fila davanti all'hangar dove vengono smistati per gruppi e davanti agli autobus 45 pronti a partire. Il difficile arriverà da domani, quando bisognerà convincere coloro che invece non vogliono partire affatto. La capo missione di Medici Senza Frontiere, Anne-Lizzie Curie. Le persone che si sono convinte a partire in realtà sono molto stanche. La situazione nella giungla di Calais è disastrosa. Fa freddo, piove dentro le tende, quindi la prospettiva di andare in un posto caldo con dei servizi igienici ha convinto molti a partire. Il fatto è che poi spesso tornano a Calais. C'è poi il nodo dei minori non accompagnati, circa 1000 tra bambini e adolescenti. Un municipio inglese su 4, denuncia il Guardian, si rifiuta di accogliere i bambini rifugiati da Calais. E anche nei 283 comuni di accoglienza in Francia ci sono proteste dei residenti contro l'arrivo dei migranti. A Louvera il centro di accoglienza è stato dato alle fiamme. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per effetto dei cambiamenti climatici, la coltivazione dell'ulivo in Italia è arrivata a ridosso delle Alpi. Nella pianura padana si coltiva circa la metà della produzione nazionale di pomodoro, destinato a conserve, e di grano duro per la pasta, colture mediterranee. Ci sono altre notizie che riguardano l'agricoltura e naturalmente il clima, come quella che ci racconta che a Giarre, ai piedi dell'Etna, si coltivano i primi avocado made in Italy. Tutto questo è raccontato in un rapporto di Coldiretti dopo l'allarme dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale sulla concentrazione media di anidride carbonica nell'atmosfera, che ha raggiunto il traguardo di 400 parti per milione. Insomma, il clima torna più che mai d'attualità, in realtà non potrebbe essere altrimenti, anche nel mondo del lavoro, il tutto in quello che è ormai l'imminenza di un importante appuntamento. Quella che stiamo vivendo è una nuova era per il clima, con livelli allarmanti di concentrazione di anidride carbonica nell'aria e con temperature che continuano ad alzarsi. A dirlo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, dati sui quali dal 7 al 22 novembre si discuterà a Marrakech durante la COP22, la conferenza sul clima, chiamata a scrivere le regole dello storico accordo di Parigi. Chi partecipa a COP22? Solo i paesi che hanno ratificato l'accordo di Parigi, che entrerà in vigore il 4 di novembre. L'Italia non potrà sedersi al tavolo di chi deciderà le regole. Perché? Perché secondo le regole fissate dall'ONU, a quel tavolo decisionale potranno partecipare soltanto i paesi che hanno ratificato 30 giorni prima dell'inizio della conferenza sul clima. L'Unione Europea avrà però un peso forte nella trattativa e si spera diventi capace di una politica così unitaria. Allo stesso tavolo però ci saranno anche i singoli stati come Austria, Francia, Germania, Svezia e anche paesi che hanno ratificato in fretta fretta e furia, ma che fino al mese scorso erano parecchio indietro sulle pratiche ambientali, come la Grecia, l'Ungheria, la Polonia, la Slovacchia. E potrebbe essere che Polonia e Ungheria spingano più dell'Italia per avere una voce propria oltre a quella europea, con accordi forse a ribasso o interessati solo ad alcuni settori. Intanto a Marrakech si sono conclusi gli incontri ministeriali preparatori, riunite le delegazioni di oltre 70 paesi che hanno affrontato tra gli altri anche il tema dei finanziamenti e la proposta di una roadmap del costo di 100 miliardi di dollari l'anno, sovvenzionata da paesi donatori che stanzino fondi per il clima entro il 2020. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso naturalmente tutti convocati, noi ci risentiamo domani. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.